took the blood out of the stone. Turned into something of his own. He wrote a message in the snow. He sent the snow up to the moon. The price is getting near. Thank you. boxo spaziale. Vaga scaletta. Che bello, sono in un parco con Guendalina Piselli che mi viene a raccontare di una nuova esperienza editoriale chiamata 17. Comincio subito a chiederti perché si chiama 17. Si chiama 17 perché 17 è la vita media di un campo profughi espresso in anni. 17 anni è la vita media di un campo, che è considerato di solito un luogo, uno spazio che nasce, viene costruito per essere transitorio, ma di fatto, come dimostra appunto questo numero, è uno spazio che rimane nel corso del tempo e dura molto di più di quanto effettivamente si pensi. Esatto, diventa quasi maggiorenne un campo profughi. E raccontami di questa pubblicazione nuova, che cos'è? Ma è una pubblicazione che sarà, che da qui in poi esisterà, oppure è un one-off? Allora, è un one-off nel senso che 17 nasce come catalogo di una mostra che ci doveva essere, un'omonima mostra appunto 17 che avevo previsto per Colla Fest e Billboard Bull 2020. Billboard Bull è stato fatto in circostanze diverse, con vari incontri. I ragazzi di Colla Fest, che sono i ragazzi del collettivo Franco, hanno deciso invece di posticiparla. Io, pur avendo comunque la possibilità di fare la mostra, ho deciso di posticiparla insieme a tutto l'evento per questioni curatoriali e anche più politiche, per appunto il ruolo culturale che questa mostra avrebbe avuto all'interno anche proprio dello spazio urbano, visto che doveva essere allestita nelle tre vetrine di Via dell'Indipendenza, che adesso sono gestite dalla Velostazione. Ah, che era quello che una volta si chiamava Tripla, giusto? Esatto. Abbiamo parlato con Paolo Bufalini, che era uno dei curatori la settimana scorsa. Ho capito, e dunque niente mostra, però il catalogo, diciamo, si è fatto. Raccontami tutto. Sì, il catalogo si è fatto, in realtà si è fatto tutto, nel senso che anche le sette illustrazioni che si trovano nel catalogo sono poi quelle che andavano in mostra, che andranno in mostra perché la mostra verrà fatta in un formato molto grande, 70-100, sono a casa mia sotto il mio letto, quindi in realtà è già tutto pronto. Il catalogo è stato comunque distribuito, ecco appunto perché era già stato fatto, perché catalogo e mostra funzionano insieme, ma funzionano in qualche modo anche autonomamente. Il catalogo raccoglie la riproduzione delle sette illustrazioni, ovviamente in formato più piccolo rispetto al 70-100, e cinque testi. Uno è il mio editoriale, che racconta appunto il progetto e da dove nasce, e poi quattro testi che vanno ad approfondire il tema del campo profughi non dal punto di vista diciamo politico e sociale in sé sulla migrazione, ma proprio sul campo profughi come spazio urbano peculiare, appunto nato per essere provvisorio ma di fatto destinato a durare per anni, perché appunto 17 è la vita media, ma in realtà se si pensa ai campi profughi che ci sono in Palestina hanno 40-50 anni. Certo. di durata effettivamente come spazio. Quindi appunto questi quattro testi vanno ad approfondire questa tematica. E qui stiamo parlando di Calais, giusto? O sbaglio? Allora, non in particolare, nel senso che Calais è un po' il punto di partenza, perché il progetto nasce da due suggestioni. La prima è quella di una raccolta di conversazioni che sono avvenute realmente tra volontari e profughi nel campo profughi di Calais, che è disponibile online, e dalle quali appunto gli illustratori hanno preso ispirazione per realizzare le illustrazioni, e però anche da un altro progetto, che è un progetto di mostra alla collezione Maramotti, Le Fontane di Zatari, della Margherita Moscardini, che è effettivamente il primo progetto che mi ha fatto pensare al campo profughi come effettivamente a una città, a uno spazio urbano con le proprie caratteristiche politico e sociali e anche economiche, perché ad esempio lei appunto raccontava di Zatari come la quarta città più grande della Giordania ormai, e ha anche un proprio sistema economico, ad esempio con degli sportelli bancomat, con una propria amministrazione interna. Sì, no, effettivamente ho visto il video su questo campo profughi ed è veramente impressionante. Cioè, c'era questa zoomata fatta con come si chiamano, con i droni, che ti faceva vedere come veramente è una città in mezzo al deserto. E raccontami degli illustratori, chi sono, come li avete scelti? Allora, gli illustratori appunto sono sette: Isabella Bersellini, Marco Brancato, Elisa Caroli, Andrea Cronopoulos, Federico Manzone, Davide Bart Salvemini e Alessandro Cripsta. Sono appunto sette, sono persone che conosco personalmente e professionalmente attraverso un po' l'Accademia, un po' anche il lavoro appunto per Fruit, e sono persone che stimo personalmente e professionalmente. Sono tutti illustratori e illustratrici giovani che però hanno già una carriera anche a livello internazionale e nazionale. Quindi insomma, e sono locali? Sono bolognesi? E no, Andrea ad esempio è di origine greca e lavora a Roma. Federico Manzone l'avevo selezionato, insomma gli avevo chiesto di partecipare ancora prima di sapere che facesse parte del collettivo Franco e quindi dell'organizzazione Collafest. Davide di Ravenna, ma insomma siamo amici da tempo. Elisa Caroli fa parte del collettivo Lockzin e ad esempio lei sta a Parigi, quindi insomma abbiamo lavorato completamente a distanza, al di là del fatto che non ci si potesse effettivamente e dunque vedere. Praticamente l'idea parte da te, tu hai commissionato questo lavoro a loro. Come l'hanno presa? Cosa dicono? Erano tutti entusiasti, sia perché era un momento in cui c'era poco lavoro, nel senso, certo, che erano persone che stavano facendo cose proprie ma senza effettivamente uno sbocco poi pubblico da un punto di vista organizzativo in questo modo, e poi perché erano molto contenti del tema, e il motivo per cui li ho selezionati anche perché sapevo che avrebbero avuto la capacità e la sensibilità di lavorare su questo tema. Io devo ammettere la mia totale ignoranza per il mondo dell'illustrazione, perché fra l'altro appunto non sapevo nemmeno che si facesse, a parte le mostre che ho visto, le poche cose che ho visto a Fruit, non sapevo neanche che si facessero mostre di illustrazione con l'intento di una mostra. Ho sempre pensato che gli illustratori lavorassero per le pubblicazioni e basta, ma invece tu mi racconti un mondo diverso. Beh, in realtà l'esempio più lampante di che esista questa visione è sicuramente Bilbol Bull, perché comunque sono fumettisti ma anche tutti illustrazione. Certo. A livello più settoriale e professionale la Children's Book Fair, che comunque fa moltissime mostre in città di illustratori, quindi in realtà è qualcosa già di molto consolidato, forse più diffuso all'estero piuttosto che in Italia, ma anche perché comunque se si pensa alla Francia o all'Inghilterra hanno una lunga tradizione del mondo dell'illustrazione che è sempre stata riconosciuta, mentre in Italia diciamo che rimane il settore delle arti visive forse. Sì, diciamo che in Italia le arti visive vengono già considerate poco, gli illustratori vengono considerati ancora meno. Infatti mi ricordo appunto, ho incontrato una illustratrice tedesca alla Children's Book Art Fair uno degli anni scorsi e lei mi diceva, lei faceva fra l'altro sia l'illustratrice che la pittrice, e mi diceva: guarda, il mondo dell'illustrazione adora il fatto che io faccio anche la pittrice, il mondo dell'arte odia il fatto che io faccio anche l'illustratrice, perché viene considerato un'arte minore, che naturalmente di questi tempi a me sembra veramente una cosa assurda. Tu come la vedi il mondo dell'illustrazione? Lo vedo come un mondo bellissimo che anche io piano piano sto scoprendo proprio attraverso il lavoro con Fruit, ma anche con persone appunto che sto conoscendo e che scoprono che di lavoro fanno gli illustratori. Certo. L'idea forse che va per la maggiore è che l'illustrazione appunto sia sempre un accompagnamento con un testo, e che invece non possa funzionare in modo autonomo, quando in realtà può benissimo farlo, e credo che adesso nel piccolo un progetto appunto come 17 sia una dimostrazione di questo, perché i ragazzi e le ragazze sono partiti da dei testi che in realtà né nella pubblicazione né nella mostra sono presenti, e comunque riescono da sole a raccontare qualcosa, a dare delle suggestioni. E dunque dove si trova questo 17? Allora, 17 è acquistabile sul nuovo bookshop online di Fruit, che è disponibile al sito www.crudotdb.com nella sezione bookshop, e si può ordinare da lì e poi... It could all be so simple, but you rather make it hard. Loving you is like make her better. And we both end up with scars. Tell me who I've got to be to get some real reciprocity. No one loves you more than me, and no one ever will. This is just a silly game that forces you to act this way, forces you to scream my name, then pretend that you can't stay. Tell me who I've got to be to get some reciprocity. Oh, you hurt yourself to make me stay. This is crazy. This is crazy. You live for me. Or will you? coccio spaziale. Thank you. Sbirciare anche tutto il resto che insomma nel nostro nuovo bookshop online. Esatto, perché tu appunto ti occupi della comunicazione di Fruit, giusto? E anche della direzione artistica, com'è? Sì, sono co-direttrice artistica, lavoro insieme ad Anna insomma alla direzione del festival e quindi alla creazione della fiera, di tutti gli eventi che si svolgono in quei 4 giorni, e durante l'anno comunque mi occupo della comunicazione di Fruit. Sapendo che la Children's Book Art Fair è stata posticipata a giugno, se non sbaglio, ne approfitto e ti chiedo, secondo te quando succederà il prossimo Fruit? Ce la faremo a tornare in presenza? Allora, noi speriamo di sì, sicuramente per tutti gli eventi che andranno fatti in presenza, speriamo di farli appunto presto, dovranno essere considerati molti fattori. Il primo fra tutti, almeno io personalmente, penso a... anche alla reazione delle persone che vogliono effettivamente viaggiare o ritrovarsi, certo, tra tante persone, perché adesso iniziamo a parlare di vaccini, ma parliamo anche di dosi che non bastano per tutto il mondo e di categorie che verranno fatte prima di altri e anche ricchezze che verranno, certo, prima di altre. Quindi sicuramente ci sarà da valutare questo, e ci sarà da valutare anche come organizzare il tutto, quali saranno anche le varie indicazioni ministeriali. Ad esempio per i concerti sentivo che si pensava al vaccino obbligatorio per l'ingresso, insomma ci sono molte cose da valutare che stiamo cercando di farlo. Iniziare a pensarci adesso, visto i continui annullamenti uno dietro l'altro, è difficile. No, infatti ho incontrato Lorenzo Balbi, il direttore del Mambo, prima, che appunto anche lui scuoteva la testa quando gli ho chiesto appunto delucidazioni sulle novità dell'anno prossimo, perché effettivamente secondo me questo è una delle problematiche, soprattutto per organizzazioni tipo il Mambo o tipo Fruit eccetera, è una delle problematiche più grosse, l'impossibilità di organizzare, perché noi da artisti obiettivamente, vabbè, non sapendo quando c'è la prossima mostra o quando c'è il prossimo evento, possiamo comunque metterci in studio, dipingere, creare eccetera, illustrare e quant'altro, ma voi che invece dovete, cioè siete organizzatori, diventa veramente dura. Sì, mi immagino anche un po' come è stato la scorsa primavera, quando effettivamente noi stavamo continuando a cercare di organizzare e la domanda che andava per la maggiore via mail è: ma come pensate di gestirlo? Pensate veramente che si possa fare? Quindi immagino siano dei dubbi che rimarranno anche nel momento in cui magari appunto in Italia ci sarà una situazione, all'estero un'altra, quindi bisognerà... Perché poi appunto una fiera come Fruit aveva tantissimi ospiti stranieri, per cui è indubbio che se loro non possono venire tutto quanto ne perde. Sì, non che lavorare sul, insomma, tantissimi eventi anche appunto di arti performative hanno lavorato un po' sulla nazionalità, nel senso che non è brutto lavorare con artisti italiani, anzi è una cosa a cui bisogna dare valore, e la nostra però comunque Fruit è una fiera internazionale e che nel corso degli anni è cresciuta talmente tanto da avere editori che arrivavano dalla Cina, cioè da tutto l'Asia, dall'America, dal Canada, insomma, quindi sarebbe un peccato anche non lasciare questa parte più internazionale, che è anche fonte di ispirazione anche comunque per gli editori che stanno in Italia. Eh certo, assolutamente. Mi stava quasi scendendo una lacrimuccia ripensando a un'edizione di Fruit meravigliosa con appunto, mi ricordo che c'erano dei giapponesi che, se non sbaglio, facevano un workshop di riso print a Palazzo Renzo, però vabbè, ok, va bene così. No, io ti ringrazio tantissimo, e poi naturalmente da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete il link per andare a sfogliare 17 ed eventualmente anche comprarlo. Sì, io prima di lasciarti magari ti direi qualcosa sui quattro testi che sono presenti nella pubblicazione, che sono un po' il centro del catalogo, appunto, perché nella mostra sono appunto le sette illustrazioni, però il catalogo esiste in forma autonoma proprio anche per i contenuti scritti. E i testi sono di Sara Manisera, Giovanni Tateo, che è direttore editoriale di Menelik Magazine, che è anche media partner del progetto e che ringrazio tantissimo per questo, e Matteo Vianello e Giulia Buffoli, che sono due dottorandi dell'Università UAV di Venezia in architettura, e Daniele Bonaiuti, che di solito fa il grafico, ma in questo caso invece si è spinto nella parte scritta, tra l'altro in versi, per accompagnare l'illustrazione, quindi in questo caso non è l'illustrazione che accompagna il testo, ma è il testo che accompagna l'illustrazione. Il grafico poeta mi sta già simpatico. Esatto. E, a parte il testo di Daniele, che appunto è quello in forma poetica, gli altri tre vanno appunto ad approfondire il campo profughi come spazio peculiare, e Sara è andata a approfondire l'aspetto principale, nel senso del quale l'ho messo come primo perché secondo me è un buon punto di partenza, cioè il fatto che il diritto al viaggio non è uguale per tutti. Lei ha fatto, secondo me, ha realizzato un bellissimo contributo proprio su il prezzo che ha un passaporto per muoversi, quali sono i paesi che effettivamente hanno più possibilità di muoversi e quali meno. E Giovanni ha approfondito invece un aspetto più sociale, cioè quello, il diritto alla privacy, che forse ci dimentichiamo troppo spesso che stare in un campo profughi significa stare con persone che non si conoscono in spazi strettissimi nel quale non c'è assolutamente privacy, dalla doccia ma anche ai rapporti sessuali, e quindi è qualcosa che la vita umana viene privata di un piacere che è di tutti, dovrebbe essere certo. Diritto di tutti e di tutte. E infine quello di Matteo e Giulia invece è un testo più sperimentale, forse, perché utilizza l'ipotesi di controcampo per analizzare il campo profughi come possibile scenario di spazio urbano rispetto a quelli che effettivamente sono in utilizzo ora, e quindi vanno proprio a stilare 5 punti di possibilità per analizzare dal punto di vista architettonico e urbanistico un campo profughi. Ah, interessante questo. Io ti ringrazio moltissimo e dunque niente, ti faccio gli auguri di buon anno. Grazie Stefano. Grazie a te. Grazie. Ciao, a presto. Ciao. Spaziale. Carissima, come dicevamo, oggi siamo registrati e siamo lontani. Tu non so dove sia e di che cosa parliamo nella seconda parte di Coxo Spaziale. Carissimo, io sono nel mio atelier, essendo artista dotata di atelier come anche tu sei, e mi godo questa sacra vacanza, finalmente un po' di concentrazione. Di cosa parliamo? Io non mi ricordo di che cosa abbiamo parlato, o dobbiamo deciderlo adesso di che cosa parleremo? Non sappiamo cosa dire. Beh, visto che non sappiamo cosa dire, potremmo cominciare innanzitutto con l'ascoltare un altro pezzo, come abbiamo fatto la settimana scorsa, dal nuovo disco di Paul McCartney, che è Paul McCartney 3, quello in cui suona tutti gli strumenti, tutti lui, tutto nudo, e questo è The Kiss of Venus. The Kiss of Venus has got me on the go. She's got a bullseye in the early morning glow. Early morning glow. Packed with illusions, our world is turned around. This golden circle has the most harmonic sound. Harmonic sound. And in the sunshine, stand alone, we came together with our secrets blown, our secrets blown. Now moving slowly, we circle through the square, two passing planets in the sweet, sweet summer air, sweet summer. Sunshine when we stand alone, we came together with our secrets blown, our secrets blown. break, we have to stay awake. Packed with illusions, our world is turned around. This golden circle has the most harmonic sound. Harmonic sound. And in the sunshine when we stand alone, with our secrets blown, avendo constatato che sono bastati 3 soli giorni per mandare completamente in panne il cervello, Pasquini giustamente mi ha ricordato che la seconda parte non l'abbiamo ancora fatta e ci stiamo trovando per questo, quindi di che cosa parliamo nella seconda parte? Beh, io proporrei di parlare di Francesco Bonami, perché in questi giorni, approfittando del fatto che avevo finalmente un po' di tempo, mi sono messa in pari e mi sono guardata un pochino di suoi interventi su The Bonamist. Ricorda agli ascoltatori, tu che sei esperto di Bonami, che cos'è The Bonamist? The Bonamist è il suo account Instagram. Com'è che si chiama? Si fa chiamare tipo Silver Bonamino, no? Come si fa chiamare? Non mi ricordo più. Comunque fa il cretinetto su Instagram. E mi hai detto che nell'ultimo che hai visto, che magari potremmo anche ascoltarci la parte, assomigliava a qualcuno che conosciamo? Sì, assomiglia, però noi ci limiteremo a mettere una foto sul nostro fantastico blog e sarà poi cura dell'ascoltatore attento risalire all'identità che ci evocava. Poi cos'altro è successo nel mondo dell'arte durante questa settimana natalizia in zona rossa? Ma no, dunque, a me prima di passare in rassegna gli eventi numerosi di questa settimana, che poi a me non risultano, ma adesso mi concentro un attimo e qualcosa certamente troverò, premeva dire che in questo profilo The Bonamist, insomma, una delle ultime cose che avevo visto è che ha fondato un partito a cui potremmo anche iscriverci, che si chiama Exageramos, una cosa del genere. Cioè, una cosa un po' improbabile, perché lui arriva tipo con gli occhialoni scuri, sembra un po', non si capisce se cioè tra il tamarro e il mafioso, ma comunque colpisce come immagine. E il punto centrale del programma di questo partito sarebbe quello di smettere completamente di esporre artisti stranieri in Italia e di far lavorare solo ed esclusivamente gli italiani. Ora, questo approccio autarchico, tu come lo vedi? Lo vedi positivamente o lo vedi come invece un ripiegamento non auspicabile? Ma devo dire che in maniera un po' divertita lo trovo interessante. Potrebbe essere una cosa fattibile. Anzi, devo dire che in fondo mi potrebbe anche piacere questa cosa, perché alle volte vedo queste mostre istituzionali di artisti che comunque hanno un curriculum veramente molto risicato, ma semplicemente perché per volere di una galleria soprattutto americana, artisti tendenzialmente americani, hanno appunto queste mostre istituzionali in Italia come se fossero delle grandi star, mentre invece di fatto non lo sono. Cioè, se ci fosse l'equivalente in America di appunto mostre di semi sconosciuti italiani tipo te o me in istituzioni americane, questa cosa mi piacerebbe abbastanza, ma non solo me o te, anche, che ne so, Emilio Fantin o un Cesare Pietro Iusti, per dire. Follow you all of my life. things I can't leave behind. I can believe what I want, but I can't believe what it costs. Questo è un messaggio politico. Io credo che il sistema dell'arte non tiene impegno bastante nei problemi del mondo e credo che sia necessario defundare un partito politico dell'arte che va a adressare i problemi del mondo contemporaneo. E io, Charles Bonamino, voglio fondare questo partito che se va a chiamar Esageramos. Beh, devo dire che questo Esageramos non mi dispiace per niente, soprattutto per il mortorio che c'è nel mondo dell'arte ultimamente, e non solo per via del Covid, ma intendo nell'ultimo decennio. Devo dire che un movimento artistico, un partito politico che si chiama Esageramos e fa un po' di cretinate, ci starebbe bene in questo momento del mondo dell'arte italiano. Ma sì, diciamo che tra i due poli dell'approccio autarchico e quello di andare tutti quanti in un'istituzione straniera, mi sembra che questo secondo polo sia più attraente, diciamo la verità. Del resto i poli o si attraggono o si respingono. Ma sì, poi alla fine dice delle cose giuste, no? In questo suo brevissimo proclama, l'arte italiana, anzi l'arte in generale, deve impegnarsi di più sui problemi del mondo. Questa è una cosa su cui io sono molto d'accordo. Cioè, a dire la verità, penso che ci siano moltissimi artisti che si impegnano tanto sui problemi del mondo, forse non sono quelli che hanno un ruolo più appariscente. Quindi vediamo, magari avrà bisogno di formare la sua squadra. Candidiamoci, tu che hai delle aderenze, proviamo a proporci, vediamo che cosa ne salta fuori. Comunque sì, questo sito The Bonamist, per, come dire, per vivacizzare un po' e anche sdrammatizzare, io lo consiglio. Secondo me è molto divertente, e anche se è stupido, è abbastanza intelligentemente stupido, forse non troppo intelligentemente stupido, però insomma qualcosa c'è, da qualche parte va a parare nel giusto. Quindi metteremo The Bonamist, ma forse l'abbiamo già fatto, tra i promemoria del nostro blog, e andiamo tutti quanti ad esagerare anche noi. E invece, per mentre tu scorri Art Tribune alla ricerca di eventi che a quanto pare non compaiono di questa settimana, andiamo a vedere un'altra piccola follia del web che è capitata qualche tempo fa. E proprio Art Tribune si è trovato al centro di una specie di scandalo creato dal suo direttore, perché praticamente il direttore di Art Tribune sarebbe andato a spulciare sui siti Facebook di vari artisti italiani, pubblicando poi sul suo profilo, o forse in un articolo addirittura, le cose che avevano detto sul Covid, accusando gli artisti di approssimazione e di ignoranza. Tra questi artisti c'era anche Paola Pivi, che non l'ha presa benissimo e ha risposto pubblicando una vignetta sulla pagina creativa del Time di New York, insieme a Valentino Menghi, che credo che sia un disegnatore, oddio, veramente non sono sicura di chi ha disegnato e chi ha fatto il testo, comunque ironizzando su questa cosa, che comunque è al limite della scorrettezza, perché non si va a pescare tra i profili privati delle persone andando poi a rendere pubblici i loro propri commenti. Comunque è una cosa che è capitata ai tempi del Covid e che riguarda Art Tribune. Se non ci sono mostre, eventualmente possiamo girarvi il fumetto di Paola Pivi. Mi ricordo dell'episodio, anzi mi ricordo del post originale sul Facebook di Massimiliano Tonelli, pubblicato pubblicamente, in cui addirittura non solo citava tutto questo, ma linkava a un articolo su Art Tribune in cui c'erano gli screenshot delle perplessità, alcune anti-governo, alcune anti-Covid, di alcuni artisti italiani. La cosa veramente scorrettissima che lui ha fatto era proprio quello di mettere alcuni screenshot di delle bacheche Facebook di alcuni artisti, pubblicandone nome e cognome, ma peccato che appunto quelle bacheche fossero, alcuni di quei post fossero addirittura privati, solo per amici, per cui io credo che il primo ad essere stato scorretto in quel caso sia stato Massimiliano Tonelli, su questo non ho dubbi. Dopodiché tutto quanto è il solito buridone all'italiana, delirio, non delirio, denuncio, calunnia, eccetera, eccetera, e come al solito non se ne fa niente. Comunque era pubblicato, cioè questo fumetto è stato pubblicato da Creative Time. Creative Time sono un gruppo, un'associazione newyorkese che si occupa tendenzialmente di performance e anche di mettere dei cartelloni in giro per la città. Mi ricordo che qualche tempo fa addirittura erano riusciti a mettere dei video a Times Square. E meno male che c'è Pasquini a correggere tutti i miei clamorosi strafalcioni. No, io non so dove mi ero fatta quest'idea, però naturalmente Pasquini sulla scena anglosassone e US è sempre al top, quindi fidiamoci di lui, e forse dovremmo cambiare fonte comunque e non andare più a cercare su Art Tribune quello che succede nel sistema dell'arte. Cosa ne dici, Pasquini? Abbiamo alternative? Possiamo provare con ATP Diary, detto anche ATP Diary, che è un portale, diciamo giornalistico sull'arte, molto attento ai trend più upcoming, e l'altro invece è il vecchio ma prezioso Exhibart, che è il primo invece portale nato sull'arte contemporanea italiana. Lì c'è un sacco di roba. Beh, tra l'altro ricordiamo a proposito di ATP Diary che in questo periodo, siccome il Covid ha colpito un pochino tutti anche sul fronte economico, soprattutto chi lavora appunto nel settore arte, spettacolo e affini, che sta facendo una raccolta fondi per poter pagare i propri collaboratori, quindi magari segnaleremo anche questa sul nostro blog, perché senz'altro è una testata indipendente che merita sostegno. E dunque da domani sempre su www.coxospaziale.blogspot.com troverete il link per aiutare anche ATP Diary. Io ero sempre Stefano W. Pasquini. E io ero sempre Chiara Giallo, anche se il mese prossimo cambierò colore. Esatto, come l'arcobaleno. E dunque vi diamo appuntamento con lo speciale di buon anno del 31 dicembre. Dove potrete sentire tutti i pezzi a cura di Stefano W. Pasquini, che, come ribadirò anche per l'ultimo, non ho scelto io, non mi ha chiesto niente. Li ho scelti tutti io, sono stato... Io avrei scelto Frank Zappa, lui odia Frank Zappa, quindi non mi ha chiesto apposta. Ma i pezzi dovevano essere di album usciti nel 2020. Ecco, cioè, Frank Zappa, sì. Credo, cioè, malgrado John Lennon... Un compleanno, qualcosa, un remix, un cameo, una riscoperta. Cioè, John Lennon ha fatto uscire un nuovo album, però non credo che sia stato lui. Paul McCartney invece l'ha fatto uscire lui, però l'ha fatto uscire così tardi, tipo la settimana scorsa, che io che non potevo... Non ho fatto in tempo a includerlo, e dunque ci dobbiamo ascoltare sempre come al solito... Jenny Owen Young, Margaret Glaspie e tutte queste signorine che urlano, che a me piacciono tanto. Comunque ci rivediamo nel 2021, sempre dal lunedì, sempre dalle 19 alle 20. Sempre su Coxo Spaziale 103.1 FM. Esatto, come se Coxo Spaziale fosse una radio da solo. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Lo è, fatto. Spaziale.